lavorerà l'orto e ascolterà i suoni della natura. Io lo invidio con una forza che non mi aspettavo. Mi dice che non avrà la TV, si porterà il PC per scrivere, dei libri da leggere e una radio. E molti preservativi. E ride. E un po' gli spaccherai la faccia. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Le 16 e 7 minuti di un giovedì qualunque, 23 giugno 2011. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. No, è che stanno partendo tutti. Io ero convinto che le ferie scolastiche le facessero solo i ragazzi, no? Che fosse passata quella stagione in cui le mamme partivano a fine giugno, uscivano dalle città per andare al mare o in montagna con i figli. E invece ho la sensazione proprio che stiano partendo tutti. Sapete quando vi guardate in giro e quell'amico se ne va, il vicino non c'è più, anche quello in strada sembra che stia per partire. L'altro giorno sono stato a cena con un amico la cui compagna è partita qualche giorno fa. Ha davanti a sé 2 settimane da solo. Ha passato la serata a dire un fracco di stupidaggini che non diceva da anni. Mi ha detto che arrivare a casa e non trovare nessuno gli dà un senso di libertà che non aveva mai provato prima, nemmeno quando i genitori lo lasciavano a casa nei fine settimana. Ma che succede alla gente in questa città d'estate? È vergognoso! La cosa che però mi stupiva è che i suoi racconti di libertà erano fatti di cose esigue, minuscole, nessuna trasgressione particolare, nessuna escort, serata in discoteca, solo chipster davanti alla televisione o disordine in casa come fosse un'esplosione nucleare. Sua moglie è a Varazze, lui la raggiunge il venerdì, a volte il giovedì sera. L'esercito dei mariti solitari abbandonati dalle mogli in vacanza mi diverte molto. Penso lui, ad esempio, lui non riuscirebbe mai a starsene da solo nella vita senza di lei. Ma vive queste 2 settimane come se fosse la ricreazione a scuola. C'è il mio comico preferito del momento, Louis C.K., racconta che le persone sposate vivono di piccole vacanze tra un impegno e l'altro della famiglia. Addirittura sostiene che quando lui carica l'auto per partire per le ferie, no? Dopo tutto il gran lavoro per infilarci i bagagli, la famiglia, le figlie, la moglie in auto, lui chiude la portiera della moglie, gira intorno all'auto per salire dal lato del guidatore e dice: ecco, quella è la mia vacanza. Io oggi vorrei censire questo esercito. Oggi vorrei sentire quest'orda di 30, 40, 50 anni che vivono questo periodo di moglie in vacanza come la loro vacanza. In città, tra il lavoro, le cene in pizzeria e le partite di calcetto. Io oggi sono qui. Non c'è proprio niente di male a invitare una vicina a bere un bicchierino, niente. Spero solo che lei non si sia messa idee per la testa. Oh, se questa tipa si crede di venire qui a fare un bacanale o roba simile, avrà una grossa delusione, sia chiaro, un sorso è fuori. Io sono un marito felice, grazie a Dio. Ci sono 2 cose che fanno sentire quanto è bello e pastoso e vecchio questo film. L'espressione "oh", che non si fa più nei film moderni. Oh, lo vedrà. E poi il termine baccanale, che probabilmente pochi conoscono oggi, ma anche tutto il suono generale. Anche se non ho scoperto chi è, come si chiama l'attore di questo film, quando la moglie è in vacanza. Lei è Marilyn Monroe e il regista è Wilder. È Billy Wilder. 800240024 349-238-6666. Mi è arrivato uno degli ultimi messaggi che mi diceva che questa sera avrebbe partecipato alla serata di Io sono qui nella sala collina della sede di Radio 24 in via Monterosa 91. Mi diceva che veniva perché la moglie era in vacanza, o meglio, era contento di venire, avrebbe portato anche la moglie, però era ancora più contento perché ci veniva da solo. Non so quanti verranno da soli questa sera senza la moglie perché la moglie è in vacanza, o magari anche da sole perché il marito lavora. Non c'è mai la... È difficile pensare alla moglie che sta a casa mentre il marito è in vacanza. Cioè, se la moglie è a casa, il marito è al lavoro, di norma. E adesso, olè, bordate di telefonate. A casa di Bonini era così. Cioè, il papà era a casa e la moglie... E la mamma lavorava. La mamma lavorava, non era in vacanza. Ah, il papà era in vacanza. Giusto. Però la famiglia di Bonini, sappiamo, è una famiglia particolare. 800240024. Gabriele su Facebook mi ha scritto: ho cominciato con mezza tovaglia sul tavolo. Ah, lui mi racconta l'iter. La mezza tovaglia sul tavolo è di una tristezza. Metti la tovaglietta, quella piccola, è meno triste. Ma la mezza tovaglia è proprio... Mia nonna mette sempre la mezza tovaglia sul tavolo quando adesso. Anche Paolo Corleoni. La mezza tovaglia sul tavolo è proprio un sinonimo di veramente di scarsa considerazione di sé. Ho cominciato con mezza tovaglia sul tavolo, poi la tovaglietta, poi un tovagliolo, poi solo piatti e posate, poi solo un piatto e una posata. Credo che ad arrivare a sabato, ultimo giorno da solo, userò il tavolo direttamente. Per non parlare degli amici che usano il pavimento come posacenere, ma in compenso mi faccio lavatrice e lavastoviglie. Vabbè, sai che roba, sì, sembra una regressione quasi da chiedo asilo. Adesso arriva il bambino Alberto e se li porta a casa tutti. Andrea, è sempre festa! Andrea ci ha messo 6 punti esclamativi. È sempre festa. Prima svuoto il frigo caricato dalla moglie, poi pizza al taglio e trattoria. Peccato che quest'anno duri solo 10 giorni. Francesco ancora dice che è un'illusione di libertà, che in realtà abbiamo sempre. Sì? In realtà abbiamo sempre. È una questione mentale, ci sentiamo liberi di fare le stesse cose che faremmo con lei e il figlio, con qualche digressione sportiva o ludica. Tennis. Marco dice: è un'occupazione armata del vuoto. Entro prima al lavoro, esco dopo dal lavoro, poi faccio un'ora di corsa, faccio un po' di spesa e cucino qualcosa. Ma a mangiarlo ci metto sempre pochissimo a tavola perché non so parlare con, non riesco a parlare con nessuno perché sono da solo. Poi lettura internet e tentativo di vederli su Skype. Questa immagine è forse più tenera e triste della mezza tovaglia. Tentativo di guardarli su Skype, moglie e figli che sono al mare probabilmente. E saluta il papà. 80024 0024 349-238-6666. Abbiamo 2 notizie per questa sera. Chiunque stia per venire a Milano, chiunque sia già in viaggio, chiunque sia già a Milano nei dintorni e questa sera sia pronto alle 21 per venire a seguire la serata finale di Io sono qui. Io dico serata finale, ma non finisce il programma stasera, finisce venerdì prossimo. Comunque facciamo semplicemente una serata finale. Ci sono 2 notizie, una buona e una brutta. Vi dico prima quella brutta. Quella brutta è che danno un po' di pioggia. Quella buona è che siamo al coperto. 80024 0024 349 238 6666. Ieri, dopo le prove qui con Paolo e Tiziano, stavo guardando la TV e ho sentito il rumore di un uomo che piangeva. In TV a volte ci sono degli uomini che piangono, eh? Tutti quelli che non piangono nella vita vera di solito. Mi sono concentrato sullo schermo, ma non c'erano altro che George Clooney e Michelle Pfeiffer, che per l'ennesima volta su uno schermo stavano parlando dentro a un taxi. Ora voi probabilmente vi chiederete perché io riveda Un giorno per caso molte volte. Questa sarebbe una questione privata, però ormai ho capito che gli affari miei, fin quando sono qui a raccontarveli, non saranno mai affari miei. Dunque, periodicamente io riguardo quel film, Un giorno per caso, perché credo che descriva in maniera molto delicata e leggera le differenze che ci sono tra uomini e donne in questo mondo. Non è sempre stato così, eh? Ma io mi sento un po' George Clooney, a modo mio, e secondo me Natalie è un po' Michelle Pfeiffer. Solo che a volte mi sento più il figlio di George Clooney e Natalie un pochettino più la figlia di Michelle Pfeiffer. Vabbè, comunque, mi diverte guardarlo quel film. Solo che George non sta piangendo in quella scena e nessun altro stava mugulando. E allora ho messo in pausa il film e il pianto ha continuato. Era un pianto reale di qualcuno vicino a me, forse sul ballatoio. E allora ho spostato la tenda della finestra e ho visto un uomo con le mani in viso che singhiozzava. Era appoggiato alla ringhiera. Non lo conoscevo, ma stava davanti alla porta del dottor Salvati. C'è questa cosa che quando vai in uno studio di uno psicologo trovi sempre tantissimi Kleenex a portata di mano. E una volta ho chiesto se per caso quelli erano perché in quei posti si va a piangere. Il dottore mi aveva risposto che no, era perché magari qualcuno al raffreddore. Mentiva, ovviamente, e ho cambiato psicologo. Comunque, il tizio che piange sul ballatoio parlotta tra sé e sé e dice delle cose che non capisco, ma suonano tipo: ma adesso io come faccio? E io provo una gran pena per lui. Non lo conosco, ma mi verrebbe voglia di offrirgli un tè o un Negroni. Probabilmente sarebbe meglio. E invece me ne sto lì dietro la tenda, anche perché intuisco che il dottor Salvati è sull'uscio. Lo sta salutando virilmente con una stretta di mano, come si fa con qualcuno che rivedrai solo dopo le vacanze. Però per quell'uomo che piange le vacanze saranno lunghe e dolorose, mentre per il dottor Salvati no. Pochi minuti dopo se ne va e io esco per andare a suonare a Salvati. Così, perché voglio un po' farmi gli affari degli altri, non saranno certo meno interessanti dei miei, no? Anzi. Gli dico che ho sentito che sta per andarsene e volevo salutarlo. Lui è molto gentile, mi fa accomodare, mi offre un bicchiere d'acqua e mi racconta dei suoi programmi per le ferie. Ora, siamo in giugno e lui non tornerà prima di metà settembre. Che è vero che fa un lavoro duro, eh? Però 2 mesi e mezzo di pausa non sono male. Lui però non è che ci tenga a scusarsi. Anzi, è la forza di chi è convinto di sé e sa che non fa niente di sbagliato. se sia riuscito a costruire una vita migliore di quella che uno che lavora 14 ore al giorno. In fondo è la sua vita e non fa del male a nessuno, anzi. Poi mi dice che va in un casolare nell'Appennino tosco-emiliano con degli amici perché ha comprato una casa dove possa ospitare sempre molta gente ed è felice così, nella natura ma mai da solo. E poi ha un libro da scrivere e deve anche ricaricare un po' le batterie perché è stato un anno piuttosto impegnativo. Lavorerà l'orto e ascolterà i suoni della natura e io lo invidio con una forza che non mi aspetto. Mi dice che non avrà la TV e si porterà il PC per scrivere, dei libri da leggere, una radio e molti preservativi. E ride, e un po' gli spaccherai la faccia. Stamattina sono venuta a piedi, come faccio qualche volta nelle belle giornate. Oppure, se non sono proprio bellissime come oggi, quando voglia di muovere un po' i muscoli. Ho messo il mio taccuino in borsa, che è una cosa che non faccio mai. Di solito lo lascio a casa e le mie impressioni le scrivo a fine giornata. Ma forse per via di quelle righe scritte da Natalie sul retro, quelle che mi sto centellinando, o forse perché sento che lo spazio sta finendo e tra poco non ci sarà più nulla da scrivere, mi ci sto affezionando e mi piace tenerlo con me quel taccuino. Le strade della città sono sempre piene di gente, la maggior parte di loro però mi sembra indaffarata a prepararsi per partire. Le scuole sono chiuse, la gente si mette dei vestiti estivi, le donne le canottiere, gli uomini le Lacoste, le donne le minigonne, gli uomini i pantaloni corti. I bambini girano senza meta su biciclette o skateboard. Arrivato a pochi isolati dalla radio, mi fermo a guardare una coppia che sta caricando una macchina di bagagli. È giovedì, però ci sono già partenze per weekend, magari anche settimane intere di vacanza. Da adesso ad agosto ogni momento è buono per vedere qualche famiglia caricare il proprio bel nido su quattro ruote e portarlo al mare, o sui monti, o dove vuole, basta che non sia qui. Rimango incuriosito dalle dinamiche che si creano quando un uomo e una donna provano a mettersi d'accordo su qualcosa che li vedrà sempre distanti e capire chi dei due sta perdendo la faccia e quale invece la sta avendo vinta. Non che debba sempre essere una guerra, un rapporto a due, però si sa che le differenze ci sono e che non sono sempre lì pronte a farsi ricomporre, soprattutto quando si tratta di fare una cosa completamente insieme, come partire per le ferie. E mi immagino quante parole non si stiano dicendo per evitare di fare del male inutilmente all'altro, per evitare di mostrare un lato di sé che all'altro non piacerebbe, per non compromettersi completamente, rimanere della propria idea almeno dentro di sé. Si vede che sono molto intimi, hanno una gestualità che si capisce, che si conoscono fino in fondo. Quando uno si muove, l'altra sta ferma. Quando lei parla, lui sta prudentemente zitto. Non sono due persone che litigano. Sono solo due persone diverse che si vogliono bene e cercano di mettersi d'accordo su piccole cose, che però significano molto di più. E mi sforzo di inventare le frasi che non si stanno buttando addosso, gli sguardi che trattengono dietro i loro occhiali da sole, gli sbuffi che rimangono nella loro bocca, per amore, per sopravvivenza. O forse per quella consapevolezza che con chiunque altro sarà sempre necessario mediare, sapendo che se qualcosa lo perdi, qualcos'altro lo guadagni. E il momento in cui perdi lo devi mandare giù come un boccone amaro, perché quello dolce arriverà prima o poi. Sono arrivato, sono entrato in radio. Prima di fare le scale per arrivare negli studi, ho aperto il mio taccuino, dalla parte rovescia, quella dove ho scoperto le frasi di Natalie. E ne ho letta una a caso, come faccio in questi giorni. La frase era questa: ho avuto una proposta per andare a lavorare in Georgia. Te lo racconterò domani, Matteo. Prima forse è meglio che ci dorma sopra. Buonanotte. C'è un inaspettato esercito di donne, di mamme che vorrebbero e cercano di rimanere a casa mandando i propri mariti o compagni in vacanza. 349-238-6666 800-24 0024. Sono la moglie e la mamma che, come tutti gli anni ad agosto, rimarrò solo a casa per qualche giorno e allora via a fare quelle piccole cose che proibisco agli altri durante l'anno: mangiare pizza sul divano, lasciare i vestiti sulla poltrona, non asciugare il box doccia. No, ma non asciugare il box doccia è veramente da lager. Cioè, fai asciugare il box doccia ogni volta? Ma con cosa? Magari con quella... come si chiama? L'asciughino che... No, la pelle di Dino. Secondo me ci sono alcuni, e secondo me Melissa, perché si chiama Melissa, è tra questi, che usano... Sai quello che usano le persone, quelli che asciugano i vetri al semaforo? La spatola. La spatola per asciugare il box doccia. Non asciugare il box doccia, camminare scalza, se sapessero. Poi quando tornano tutti in ordine. Io mi sento un po' adolescente. Baci, Melissa. Vorrei veramente sapere quanti sono quelli che asciugano il box doccia. C'è della perversione, in quella roba lì. Paolino asciuga il box doccia. Le mie vacanze iniziano il 3 luglio. Io appoggio Andrea, che dice è sempre festa. Ciao Sergio da Ghedi, Brescia. Allora, l'attore invece, l'attore di Quando la moglie è in vacanza, si chiama Tom Ewell, credo, scritto Ewell con la W, quindi Ewell. Attore Oscar. No, aspetta, no, anch'io credo che Oscar sia il nome di quello. Cioè, il messaggio è Tom Ewell, attore Oscar. Credo che Oscar sia quello che mi ha mandato il messaggio. Quando la donna è in vacanza scattano grandi tornei di PlayStation e siamo felici come bambini. E va bene, andiamo a Massa Carrara, andiamo da Riccardo. Pronto, Riccardo? Sì, pronto, ciao. Ciao, come stai, Riccardo? Non farmi questa voce. Beh, fammi sentire che sei felice. Sono felice, ma mancano ancora qualche giorno per essere ancora di più, diciamo. Perché non è ancora partita? No, non è ancora partita, parte fra una decina di giorni. E dove va? Va a Parigi. Ah, non fa la vacanzina a Varazze. A parte che tu sei di Massa Carrara, quindi c'hai... Sì, già il mare ce l'hai. Il mare ce l'hai. Sì, sì, sì. E già qui effettivamente non si contano i poveri mariti che vivono sulle coste e che non hanno nemmeno la scusa. Ci siamo anche noi. Ci siete anche voi. E quindi lei va a Parigi? Sì, va a Parigi con un'amica e le bimbe. E tutti gli anni, 15 giorni. Ma tutti gli anni va a Parigi? Tutti gli anni, sì, perché ha una casa, l'amica di mia moglie ha una casa e quindi ne approfittano e vanno 15 giorni. E cosa ci fa a Parigi, perdonami Riccardo? Ma non lo so, visitano musei. Tutti gli anni? Mangiano, ma tutti gli anni, lo stesso, tutti gli anni, no scherzo, ce n'è tanti, insomma, visitano cose diverse, insomma, poi ma si porta dietro le ostriche. Si porta dietro anche le bambini? Sì, sì, un bambino, una mia e una dell'altra famiglia. Beh, però 15 giorni a Parigi. Senti, e tu cosa fai quando lei è via? Beh, allora diciamo che siccome tutto il resto dell'anno è noia. No, non è noia. No, no, io sono estremamente disordinato, ma non solo per gli oggetti, proprio per il modus vivendi, perché non ho gli orari, non ho le cose. Lei disperatamente tutto l'anno cerca di mettere un po' di ordine nella mia vita, costringendomi a una vita normale. È un'eruzione di è roba un'eruzione in casa tua. Che fa bene, sì, nel senso che fa bene, che poi almeno evito appunto l'eruzione, però succede di tutto in senso buono, nel senso che, beh, certo, che non c'ho gli orari più disparati per mangiare, per dormire. Riccardo, cosa fai nella vita? Sono un geologo. Sei un geologo, quindi viaggi tanto oppure... Viaggio tantissimo, sì, faccio 70-80.000 chilometri all'anno di macchina. Ah, e di cosa ti occupi in particolar modo? Mi occupo di bonifiche ambientali. Ok, sei a Massa Carrara adesso? No, sono per l'appunto in autostrada, sto rientrando da Rimini. Secondo me se parti adesso tra 2 ore e mezza sei qui per la serata. Sì, va bene, aggiudicato. Ciao Riccardo, grazie mille. Ciao. Saluta la moglie, buon viaggio anche alla moglie. Adesso la borsa e poi io sono qui. No, non posso, signora Sherman, domattina no. Domattina accompagno la mia signora e i figli al treno. Se ne vanno in campagna tutta l'estate. Poi domenica sono successe due cose. Sapete come sono le mamme, no? Un po' come i papà per le figlie femmine. Quella spensieratezza un po' sconsiderata che si fa. E io che mi ero convinto che i gusti fossero mutevoli. Che quello che ci piace ci definisce. Dice chi siamo e quello che possiamo diventare. Ma voi, esattamente dove siete? Io sono qui è stata la storia di una vita riassunta in 10 mesi di programma, ma basterà una sola sera per ripercorrerla tutta. Io sono qui live, giovedì 23 giugno 2011, un anno di diretta in una serata dal vivo. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto di oggi siamo una farfalla su un fiore, una foto bellissima, c'è una farfalla con delle lunghe ali molto delicate, gialle nere, ha degli occhi giganti e delle antenne che non avranno sicuramente un nome specifico che non conosco, ed è posata su un fiore bianco con dei petali bianchi. Ileana Pepe ha 31 anni, l'erba è arsa dal sole e l'aria è impregnata di mirto selvaggio. E tu, creatura dalla rapida esistenza, con la tua grazia mi svegli l'arte di ingannare il tempo. Io sono qui. Questa, più che una didascalia, sembra una poesia di Giovanni Pascoli, dovrei dire. Questa è tutta la grazia delle donne che stanno partendo per le vacanze contro gli uomini che invece rimangono in città e stanno per dirci delle cose orribili. Una delle piccole sorprese di questa sera, tra l'altro stiamo ancora decidendo se usare un microfono attaccato alla faccia oppure un microfono... No, l'abbiamo deciso, l'abbiamo deciso. Usiamo il microfono attaccato alla faccia, l'archetto, usiamo quello. Della serie un po' chi se ne frega... Beh no, chi se ne frega mica tanto, perché poi questa sera, grazie all'acustica che il buon Renzino Piano, quando ha disegnato tutto, ha detto: la prima cosa, ragazzi, nella sala collina è l'acustica, ok? E poi ci hanno disegnato tutto, la collina dietro e la mensa di fianco. Cioè, la mensa è aperta questa sera, volendo, la mensa è aperta, volendo uno può arrivare, non l'abbiamo neanche detto, uno può arrivare quell'orettina prima e sfruttare la mensa del Sole 24 Ore a soli, credo, 8 euro. 8. Sì, si può. Forse sto dicendo una cosa che non dovrei dire. Non credo che si possa mangiare. Non credo che gli ester... Adesso quelli della Pellegrini vengono a prendermi e mi portano fuori con un orecchio. Quindi, una delle piccole sorprese che ci saranno questa sera è che in un unico slide che verrà mandato, proiettato in diversi momenti della serata, si vedranno tutte le foto che sono state inviate in quest'anno, in questa stagione di Io Sono Qui, da voi, dagli ascoltatori, quelli che sono arrivati a Io Sono Qui @radio24.it. Questa sera scorreranno tutte, non vi dico come, ma scorreranno. 800240024 349 238 6666. Prima di cominciare, allora, c'è gente, ragazzi, che pulisce il box doccia. Anch'io asciugo il box doccia con l'asciugamano, evita il formarsi del calcare. Ciao. Ogni tanto anch'io asciugo il box doccia, così mia moglie sta buona e per qualche mese mi lascia in pace. Anche Angelo da Trecate asciuga il piatto della doccia. Il piatto della doccia, il box doccia è una cosa, il piatto della doccia è un'altra. Il genio della mia morosa ha voluto prendere uno di quei box doccia trasparenti, moderni e di tendenza. L'ho avvisata che sarebbe stata una super fregatura, ma non è servito. Ad ogni doccia, oltre la spatola, è necessario anche lo straccio per asciugare, se no resta uno schifo. Vitaccia, ciao Gio. Ragazzi, direi quanta igiene e quanta tristezza. Andiamo da Stefano da Biella. Pronto, Stefano? Pronto, Matteo, ciao. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Senti, tu sei in attesa... Io me la cavo abbastanza bene. Tu sei in attesa che arrivi il 17 di luglio? Sì, sì. Perché? La mandiamo a trovare la mamma. Dove sta la mamma? La mamma sta in Veneto. Sì, e tu stai a Biella? Io sto a Biella. E vado a trovarla un po' e rimango da solo. Quanto rimani da solo? Una settimana. Senti, ma scusami, la frittatona di cipolle è una parodia oppure tu ti fai veramente la frittata di cipolle? No, è una citazione. Ah, ok, perfetto. No, temevo tu veramente ti facessi la frittata di cipolle. Che cosa fai nella vita, Stefano? Strumenti musicali, riparo pianoforti. Ripari, ma gli accordi? Sì, anche. Quindi se si può dire che un accordatore di pianoforti è tu sei un musicista, no? Ecco, qui si può aprire una piccola parentesi. Io dico che così come Jean Todt all'epoca metteva a posto la macchina, però non era Schumacher, però c'ha la patente, c'è l'accordatore e c'è il musicista. Okay. Diciamo che per piacere personale... Suoni? Sì, suoni. Sei un collaudatore? Sono un collaudatore, ecco. Stefano, da Biella, secondo me se parti adesso ce la fai a essere qui stasera, eh? Ma guarda che... Mangio le mani. E va bene, sarà per la prossima volta. Saluta tua moglie. Volentieri. Ciao, grazie, buona giornata. Bocca al lupo per stasera. Bocca al crepi. Ciao. Okay. Bisogna essere sinceri, scrive non so chi da Parma. Quando si accompagna la ragazza in stazione perché torna un periodo a casa dai suoi amici, alcol, lap dance e night. Questo bisogna essere sinceri, mi sembra una boiata. E andiamo a sentire una donna. Andiamo da Sonia da Milano. Pronto, Sonia? Ciao, pronto. Perché sorprendentemente, Sonia, ci sono anche delle donne che mandano via i mariti. Non lo l'ho mandato proprio via, però sì, io lo mando con i figlioli. Tu hai fatto tre estate, mi scrivevi che hai fatto tre estate di maternità e figli piccoli, perché li hai avuti tutti e tre d'estate? Diciamo che ho avuto due bambini a distanza di 20 mesi l'uno dall'altro, per cui ho passato praticamente tre estati con loro. E quest'anno dove va il marito? Il marito si farà un po' di mare, un po' di montagna, un po' Rimini e Riviera e un po' in montagna nella provincia di Belluno. Qual è dei tre quello che sta urlando? No, aspetta, sono solo due. No, è il più grande, quello che ha 3 anni e mezzo. E tu cosa fai, Sonia, nella vita? Allora, io sono un'impiegata amministrativa in ambito telecomunicazioni. Va bene, vieni stasera, Sonia? Con i bambini però, perché il marito non ha ancora preso servizio. Con i bambini mi sa che non ce la facciamo. Trova qualcuno da lasciare. Sonia, grazie mille, buona serata. Figurati, ciao. Il bambino la reclama, meglio lasciarla andare, perché altrimenti poi è subito telefono azzurro. Andiamo velocemente da Matteo da Bologna. Pronto Matteo? Ciao, sono qua. Le ragazze vanno in vacanza, chi sono? Ah beh, moglie, una figlia e un'altra ancora al caldino nella pancia. Dove? Ah, quanto manca? Oh, dicembre, ancora lungo. E tu vai in Nuova Zelanda? Sì, al B3. Perché? Per lavoro. Ah, ok. Che lavoro fai, Matteo? Sono un direttore vendita di impianti industriali. Wow. Cioè, detto così non sembra proprio eccitante, però invece... No, lo è, anche perché se ti vai in Nuova Zelanda probabilmente qualcosa c'è. Matteo, ti ringrazio molto, in bocca al lupo e buon viaggio. Prego, ciao. Ciao, grazie. Il racconto che vi racconta. Sono qui, in piedi davanti al mare al di là della finestra. Ho 23 anni e scopro di avere una madre diversa da quella che chiamo da sempre mamma. Mi viene in mente una scena che descrive un mio infantile e ostinato attaccamento al vero. Mio fratello, come al suo solito, racconta un accadimento qualsiasi, reinventando e colorando con spontanea maestria. E io, lì accanto, che fremo e arrossisco, trattenendo a stento l'impulso a gridare «Ma non è vero!». Ecco, non era vero qualcosa di ben più importante e nessuno aveva ancora trovato il coraggio o l'esigenza di farmene parte, tanti anni dopo. Ci sono stata, a Caput, e a Berlino ci ho vissuto qualche anno. Il paese dove sono nata non esiste più. È un'unica Germania ed è bene così. Ero curioso, con lo stemma, col compasso e il martello, singolare unione tra lavoro manuale e calcolo geometrico. Sì, mi incuriosiva. L'inno nazionale esordiva con «Risorti dalle macerie e rivolti al futuro». La musica è bella, come si dice, non so perché, ma ogni volta che l'ascolto mi commuovo. Grazie a Francesca Solinas che ha mandato questo racconto, grazie a Tiziano Bonini, a Viola Bottoni, a Stefano D'Andrea e a Paolino Corleoni. Avete poco più di 4 ore per organizzarvi, prendere baracca e burattini e alle 9 essere qui in via Monterosa 91 nella sala Collina di Radio 24. Domani non lo so, ma oggi io sono qui e stasera anche. E voi dove siete?